Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Lo posso annunciare? Il programma prevede, buongiorno a tutti, il programma prevede scatole chiuse, la delegittimazione della critica è un esempio di razionalità sociologica. Vai, Olive.